sta accendendo. No, io vorrei che la faccia con la festa a Ussini. Ma adesso c'è Sant'Antonio, però non mi ricordo che giorno è la pizza. De Roger, ho conosciuto il coso, l'appuntato di Ussini, che è venuto a una festa a Tisi. Ho scambiato un paio di chiacchiere, non so se lo conosci. Appuntate, che ne so, io Giovanni. E lui è originario di Portomaggiore, se non sbaglio. Quello alto che c'è una cicatrice nelle in faccia. Sì, mi sembra. Guarda che poi c'era anche una cosa, un carabiniere scelto, donna. L'ho visto con chi si è buono, Sì, quello che c'ha una cicatrice, mi sembra che è una parte della faccia. C'è una cicatrice, ma l'olino è alto, No, ho sbagliato, questo è alto, però che era sottello. Sì, già è lui, allora vai. Già è lui. Perché c'è quello lì. Poi c'è Giovanni. Che è l'altro, è alto. Se non è quello. Comunque, dice che era a distanza lì a Ussini, perché si scambiano, come si dice, i controlli quando ci sono le feste. Ma è coso, l'impagliato non c'è più, no? Chi è l'impagliato? Te lo sai chi è l'impagliato? Il brigadiere? No, negativo, non sto parlando di, sto parlando della massima autorità della città. Non mi viene in mente. E il sindaco è? A più dose, ancora becco sul Terguane. Ancora becco? Ancora becco, ragazzi. Non è che mi dico dell'interno, ragazzi. Ma perché, scusa, non eravate di elezione da poco? Che ne so io, non ci sono andato io. E allora magari non lo sai, è andato già via. Ma non lo so, non mi sembra che ci sia anche ancora lui. Sono da parecchio tempo che non lo vedo, capito? Ora poi si è fatto una rotonda più in su di me, vicino al cimitero. Una rotatuia enorme, da. Lui, ma c'è da un po' di tempo là. Insomma, dove state? Di Roggero. Stava di Roggero, mentre invece il figlio ogni tanto lo vedo, sta facendo la guardia giurata da Bricomen. E uno è vigilante, l'altro non so cosa sta facendo. L'altro si ammaguato con un'altra. Non ci faccio il nulla. Sta facendo l'autista. Sì, ogni tanto qua a casa qua non si fa buona troia là. Ecco. Riprendi già. E tu cosa fai? L'investigatore privato? Io non so più di bocca di cose. Il paese è piccolo, la gente mormora. Scherzo. Quindi oggi non ti muovi? Sto aspettando adesso che schiarisca un attimino, dovevamo essere a coso a Sant'Argia stamattina presto perché c'era questa festa dello sport, però mi sa che l'unico sport che possono fare adesso è canottaggio e nuoto sincronizzato. Purtroppo, ma ho detto che stasera si metteva a posto. Tutta, io prenderei quel sito, il meteo.it, e lo chiuderei, li denuncerei e lo chiuderei il sito, anche perché non serve a niente. No, ma io l'ho sentito al televisore, mi ha detto che stasera si metterà a posto, a videolina l'hanno detto. Metto a posto, io sono di, c'ho scelta, frattura e Olmedo, però davvero ieri ero molto giù, non c'era anima viva, guarda, anima viva. Avrò fatto sì e no, pochi decine di euro. Lo so, perché la giornata non era per la quale, non è che uno va sotto la pioggia, sì che bella giornata, fa anche piacere farsi una passeggiata, andare, vedere, ma quando piove. Infatti, tutto chiuso e tutti a casa. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Quello lì, ciao Giuseppe. Buongiorno. Gianni. Sì. Lo tienetelo sempre chiuso il telefono, mi raccomando. chiama? Cazzo, ieri ti ho telefonato 100 volte per uscire. Non è che ce l'avevo chiuso, no. Si è scaricata la batteria, altro che non è un'altra cosa. Aspettate un attimo. Faccio una proposta, saliamo al 10 perché qua forse stiamo disturbando che c'era qualcuno sotto. Allora, come si aggrega al 10? Quello il circolo prima era, aspetta, non me lo ricordo, ce l'avevano dei motociclisti lì. Capito, non era dei FUIS, no? No, negativo. KK, no, pensavo l'avessero preso in gestione anche loro una volta. No, di quella gente non era, non hai capito, se non avremmo fatto come questo qua di Via Mores, cazzo, il circo che c'era sotto, cazzo, che dopo 4 giorni gli hanno finito. La pagava. Ehi, ehi, ehi, dove state andando a bere il caffè? Andiamo, vai. Aio già. Pronto, sì, io sto scendendo. Scusa, Grode, mi saluto, vai, ci sentiamo dopo. Cappa di Roger, dai, buona caffeina e buon tutto, ci sentiamo dopo se coincide. Ottonia, anch'io mi devo muovere, dai. Ci sentiamo le prossime se coincide e buona giornata, buon 1° maggio. Cambio. E cambiate accento, tanto ciao già, alle prossime. Io Maiocco. Ci beviamo il caffè assieme, io. Ma no, Giuseppe, vi siete un attimino sovramodulati, siete passati tutti e due, ho capito cosa avete detto. Giuseppe, non ce la faccio, sto andando perché approfitto del fatto che si sta aprendo la giornata, dai. Buona caffeina, ci sentiamo dopo. Ciao Tony, ciao. Ciao Vato. Buongiorno. Siete Pantoni. Anche i cadaveri si stanno svegliandomi. Mamma mia. Per quello già piove, adesso non ti preoccupare, tra 5 minuti. Aspetta la batti a dare l'impara. Cabo. E vai, un capo è. Guarda per San Piero, guarda. Devo andare dall'altra parte. Sì, allora già sei fortunato, dove devi andare? Saccarza. Ma ci viene a Saccarza? No, Saccarza non mi piace. Con la tua già ci conosco un paio di ragazze buone. E ci hanno un bar. Abbiamo fatto un impianto anche nella TV e mi agisciavano il pelo quando scendevo. Sì, ciao. Ciao, ma te? Ciao. Ah, Vittorì. Buongiorno a tutti, non so neanche chi c'è. Ciao, Antonio, ben sentito. È buon 1° maggio. Cappa. E il tuo gioco. Buon 1° maggio pure a te. Ciao, stavo parlando di Tula, ma guardate che all'ingresso. Mi sembra che all'ingresso proprio c'è un bar e sotto la villetta in pratica rimane, cioè, poi sopra c'è l'abitazione dei padroni stessi del bar. Ciao Roger, ci sono delle belle fregne che sono lì che lavorano. Io non so, sono due delle, cioè, mi sembra delle figlie, se non ricordo male. Due lavoravano lì al bar insieme a fratello e l'altra mi sembra che era Sassari studiando, ma ti parlo di 10 anni fa, passa, che sono andato a casa loro a fare gli impianti durante la satellitare con Emanuele, e quella una si, quando mi sarebbe venuto in mano si sarebbe attaccata a me e mi pigliava la mano per dire siamo qui alzati. Allora stai dicendo? Io non mi ricordo come si chiamano più, io ho sguardati 10 anni. Una che studia a Sassari all'università, la sottina. Eia. Sai dove abitava quella lì, per non viaggiare? E via nulla lì. Non ho capito. Comunque non ho più visto, ma c'è anche una divorziata, cioè, se non mi ricordo male. Una era normalmente, se te sei sposata, l'altra era divorziata. Già le conosco tutte in quel bar. Le conosco tutte, quella che stava studiando era la figlia del re, che c'è il curatore. E lì sono un maschio e una femmina, si chiama Antonio, e la moglie si chiama Agostina. Cava, quindi ci sia andato a buffare in Kibi. Che detto, ma un cosa. Sì, fatto conto che l'ho frequentato col papà per 12 anni. Chi ti aspetta? Tanto di essere che è stata una saltata. Fatto, ne ho visto le belle, già che ci hanno lavorato sempre un sacco di figli, E che belle, gatto. Adesso uno si è sposato e... e ha avuto un bambino da poco anche. Buona gara, ma buona veramente. Sì, il nome. Grazie, ciao, marito. Buongiorno, oggi mi hai sentito. E io sono andato di... ma ti parlo di... quando stavo lavorando con Usai, di una di due, era... 15 anni fa. C'era... la dipoziata stava tentando Manuele, e io avevo questa qua, adesso c'avevo una piccola, diciamo, e poi c'era abbastanza grande, la maggiorenne. Mi sono venuto in mano per fare la sintonizzazione del ricevitore di Sky, e si metteva a casa a me, e cominciava a toccarmi la mano, e le cuce, e dice, questa è poi qualche cosa, poi mi ha fatto la puntata, dice, già, sto studiando, dice, a Sassa, dice, lasciami il numero 3, per qualche giorno, dice, usciamo assieme, mi ha detto, io dice, sì, non ti preoccupare. E te rinara! Non ti vado nulla, capito, ti intendo basso me, paure. Fare qualche cosa, l'altro garage non mi dia che conosca. Non posso. Mi piace così a me, Tony, non posso farci niente. Sono piccolo e nero, così che mi devi accettare come sto. Vabbè, mamma, sei personale, uova. Quella mi studiava all'università, Tony, e per pescare un po' di soldi, abbassavano le mutande e aumentavano le pellicce. Allora c'avevo ragione io che c'era qualcosa di strano. Lo sto dicendo, cioè, la seconda volta che sono andato me l'ha fatto questo lavoro. Una volta dice, mi ha detto, cioè, sto studiando a Sassa, dice, lasciami il mio telefono che così usciamo assieme. Ho detto, va bene, quando vuoi, gli ho detto, io proprio non ne ho. E quel periodo lì abitavo con mamma, io ne manco, stavo pensando io a fidanzarmi. Non me ne fregava proprio niente. Poi avevo chiamato il numero di telefono e non l'ho più intesa. Ma io nel preso dicendo, l'ho frequentato per 12 anni quel bar, e tuttora che adesso intanto vedo lei, il marito, il fratello, avanti ho visto anche la mamma, l'Agostina, la figlia e c'è ancora patente. E una divorziata venne. Mi ricordo, siamo andati a casa sua per il televisore, era negoziato, c'era a casa sua, c'è proprio, mi sembra, lì vicino c'era la vetrina vicino al bacio, al negozio, il coso, la casa. Non mi ricordo. Ah, che giovane. Abbiate voi conosciuto il fratello Ciaiette, io perciò non conosce nessuno che perché già. La siete squittati da giovani allora, così è Tonino. Ogni tanto biglieria c'è un marino, una signora ronca, non vero. Ma io che so paro di un marino, da poi alla dottura. E se ogni tanto è passata chi toccava pure, poi se non era io la nuda e troppo da casa. Ehi, va bene, hai fatto bene. A Torella c'è il carino, cazzo. Antone, batti il teatro vero. E anche se non è guardato già è buono lo stesso Giovanni. Così fa, l'importante è vedere, capito? Col monito. Vai, bravo. Don Giovanni, cazzo. Non so tutti se lo posso permettere. Bene, allora va tutto lì. Beh, com'è la festa oggi, 1° maggio? La festa dei lavoratori, auguro a tutti, Allora che travagliena che non avevo una tessi. E insomma, non dire come rompendo, dire se ho travagliato, dovete sempre pregare, piove, non piove, ho fatto come in corso e non sappiamo pagare, riprendere, rientrare, riuscire, però paga cosa. Poi l'ultimo giorno, ieri notte, ho cominciato a piovere e a sussare Sara. Buongiorno, sono bombano, non lo dire a nessuno, no, se no ci credono veramente che questo Smith sta andando e tornando, a tu. Buongiorno anche a te, avanti, avanti. Ma Tommaso, ho sempre visto, non si muove mai. Che fa sempre una scala tutta tirata. Buonasera, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno, bombolo, salutore. Mi stavo per dire che c'era qualcuno sotto, stava chiamando, mi sentivo. E invece di tu. Cavala. Ciao, bombo. Aspetta, si mette qualcun altro, quello vuole entrare. Bomponia. Venga. Beh. Buongiorno, mi Giuse. Buongiorno. Si è ammazzato le vacche, è chiuso ieri notte tardi. Ho chiuso presto, c'è qualcuno assunto, non ho capito. Mi sono preso abbastanza presto, prima di degli altri, perché non so, sono stato di 10 e mezzo, no? Sono oggetto. Oi, oi, oi. Vabbè, cosa c'è? Cosa c'è, Giuse? Caro Giuse, andiamo a comprare un gruppo lettore, ce lo attacchiamo il MIB 2001 in macchina su qualche. Calma. Come si sta nell'antenna? La batteria che deve fare. Io non mi nomino. Ma dobbiamo perdere potere. Capito? Oi, oi. Capa, manco l'inverter ci puoi mettere. Perché te ne ha buttato subito la batteria. Beh, quanto assorbe? Un pezzo, per te, chi vuole entrare? Propagazione. Dopo sono 600 watt, quindi divido di due quanto è grosso quel trasformatore, quanto assorbe. Ce ne vuole, ce ne vuole. Giappa. Ehi, assa è buona a andare a te, se basta attaccare. Basta organizzarsi, attacca un gruppo di troce, non è tu pompa. Sì, qua se la so, è stato piovendo oggi, sarebbe stato bello salire a Usino con un gruppo di troce, con una campagna ce l'ho io, piedistallo, e avevo fatto un bel po' di ex là sopra. Manco bisogna usare la macchina, c'era. Ma gaffa. E beh, la macchina per portare la attrezzatura, sì, quanto te la puoi far costo. Ma la tentatura già si porta al limite in macchina, per non usare la batteria della macchina, mi volevo dire. Usavamo il gruppo elettrogeno, un bel lineare da 600-700 watt, una gran plane e via. Capito? Avanti, Torino. Cosa vuoi fare? Una centrale elettrica, altro no? Noi intanto per fare un po' di ex là sopra. Comunque lo sai che nei cavi sopra ci sono parecchi pompi radio sulla 27 in FM. Sono spagnoli e francesi, ce ne sono parecchi, parto dal canale 1 sotto fino a mi sembra al 10. Ci sono dei pochi radio, ci sono in FM sulla 27. Ma sono chiusi adesso, Antonio? E siamo chiusi, non c'è propagazione. L'altro giorno c'era questa propagazione in francese, usava tutto il ponte, no? Il ponte modulare. Quindi loro lo possono usare, quindi adesso possiamo usare anche noi. L'idea è che faccio un giro su internet a vedere quanto viene un ponte radio per la 27 e vediamo se si può usare. Si può usare, ci aspettiamo a Usilo, almeno parliamo con Cagliari. No, ma sono chiusi i ponte radio, adesso sono chiusi perché ho provato e sono chiusi. No, quelli da V no, io parlo di 27 MHz, ci sono i ponti radio FM, ci sono sulla 27, nei primi di canali di sotto. Ma non è no, non lo saperlo. Chi è che vuole entrare? Avanti. Ma non lo so, sto gatto, tanto lo devo cominciare a ricapparti. Ma Gio Maria. sveglia, ma c'è di qua, c'è di qua, non ci arrivano, ce n'è uno che è basso basso, vuole entrare ma non ci arriva, evidentemente deve essere carico stazionario, non so se lo senti Arturo. Io lo sento, mi stai dicendo qualche cosa, ma è basso, è Santiago 2-3 e dopo chiude. Io non sento nessuno, no, ti puoi immaginare, se arrivi così a te ti puoi immaginare a me. Va, Dolino! Ma io non lo sarà, io ho maricato, ma c'è pare che non riprende. Caccia. Ecco che sono usando, un baracchino normale sto usando, è un 40 canali. Ma sì, ma sarà di un'oressa, ma io marica, ma già, quanto la pelle di muro, aiuto, e fa grigiare questa uve. Quindi così lo posso fare, Antonio, poi, mattina, com'è Antonella alla radio? Ah, Antonella non risponde. È inutile a dirlo a Bombolo, perché Bombolo senz'altro arrivo male lo stesso, così a tu. Non ti credi, no. Ah, è un po' leggermente, ma è proprio accentuata. Io ti ascolto bene comunque. Aspetta, dunque dov'è? Vediamo un po', però si abbassa il peggio. Si abbassa il peggio. Diversamente lo fa. Tori, non va, forse il microfono, forse il baracchino, cosa vuoi dire, Cartoon? No, ho venduto tutto e mi sono lasciato questo solo, e pensavo che fosse più buono, e invece è peggio, così è. Ma prendi il microfono, l'ho io. E il microfono deve essere, boh, è la batteria, o sta partendo qualche integrato pezzo di dentro. E il microfono, perché il microfono è buono, è destra, push, dovrebbe essere infatti abbastanza, come si deve, ma evidentemente allora sta partendo, una batteria o c'è qualche elemento che sta partendo, capito? Ma deve fare più batteria, mio Mario, a me mi sembra più batteria che il microfono, la batteria dovrebbe essere. Ma mi senti, mi capisci? Sì che ti capisci, io ti capisco, capisci? Ti compreso, si comprende bene la radio, però è stata una scena, compreso, non è chiara come te, prima è stata appena una scena, compreso. Infatti prima ho avuto il microfono normale, invece poi io sono stato amplificato, è stata la batteria. Tony, purtroppo, la batteria non è ho. Se non metto la batteria di cucina, altro bene va. Guarda che io ce l'ho, mio marito, ce la vuoi? Oh, tu ci mancherebbe altro. No, io onesto, manco per sogno, non onesto. Allora metto la... Aspetta che attacco l'altra, almeno non sta brontolando, da poco fa sta brontolando questo Torino, solo lui ha brontolato però, gli altri no. Accontentiamolo tu, dai, un attimino di guerrici. Ma mica devi uscire tu, te la portavo io che ce l'ho, hai capito? Uso l'altro apparecchio, va, uso l'altro apparecchio. Ah, beh, vuol dire questo, fino a domani lo lascio a riposo, vai. Capo, io ce l'ho sempre di scorta, sempre. Ne uso pochissimo io, ma uso sempre roba così, hai capito? Uso anche queste radio così, questo per esempio batteria non ne ha, è alimentato dal baracchino. Uso l'altro, lo uso poco, lo uso. Non c'ho soldi a comprarmi, Tony, prestami i soldi. Lasciami tu dove, ti do una radio come interroppa, tanto che non posso andare solo a pezzo, tutto quanto su video ci piace a capo. Ah, non lasciare, quando te lavori la sua cosa, anche nella cuccia su. Cattolina, riprendi che attacco un altro, vai, almeno no, si saldito un po' quello lì, vai. Cada di vecchi. Non per quello che prendo la radio, quello è lampata, se si era pigliata Edo, guarda, un marica, uno vuole che attiri, mi li assati, uno baracchino plastica, tipo non carreggiata, guarda, io a che sentire. Quella che ho buttato io avanti ieri si è preso mi da cassonetto. Ciao Giuseppe, non so parlare, buongiorno. Caffè. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Giuseppe. In Tattari. Cappa, già ti sento qua, già arrivi. Dottore. Dimmi, dimmi. Fai canta. Cosa vuoi ti canti la serata? Io, cioè Maria bisogna che mi fai il tiro di tanto. E c'è Giuseppe qua dall'altro. Giuseppe Leoncino. Però si è sceso dalla macchina, è andata a buffare, è andato. Sono a parlarsi il becco. Riprendi Giuseppe. Ah tu, eccomi qua. Vediamo se concentro questo adesso, avanti. Manca l'umà che ce ne possiamo andare. Già fino a un po' di radio come un tesino, cappa. Finalmente, qua. Dai, su di assolotto, sono cambiato, qua. Yamma, yamma. Ma come bomba l'hanno tutto. Ah. Buongiorno anche a Giuseppe, è tornato. Ben sentito e buon primo maggio, Giuseppe. Ma ricambia facendo Giammarì, capita, andiamo bene anche oggi, manco all'umacchi possiamo andarcene. Allora, io sto il zucco, non c'ho nemmeno stivale a mettere, se io sarei adatto a giocare minuta, Tori. Allora, ancora un tempo di gioco minuto, dopo un periodo se ti scorro suonare in campionato. Ia, meno male per Antonello che lui ci va molto spesso a Lumacchi, vero Antonello? Se vado in campagna mia ci siamo a porta per Lumacchi. Ma grappa, ma non mi senti di Giuseppe a piazza le segne? È chiaro. Grappa, già ti sento anch'io di Santiago 7 e Radio 5. A voglia, forse da Gio Maria arrivi di più. Ma non ho voglia di spostarmi perché sono sotto degli alberi e forse mi stanno abbattendo un pochino di segnale anche questi alberetti che ci sono qua. Cappa, non trovo difficoltà a sentirti, ti sento. Cappa, Gio Maria. Sì, no, è arrivato bene Giuseppe, come? Capita? Quella arriva benissimo, Santiago 8:30, Giuseppe, più bello di così, la radio bella, pulita, chiara e con una meraviglia. A voi! Marini, io piano piano arrivo dappertutto, a piano e a pagapago, però già arrivo. E infatti adesso qualcuno si è preso il baracchino nuovo e arriva anche sulla luna, ha detto. E che baracco si ha preso? Un'astronave. Ehi, la Giuseppe di Leoncino, cazzo, sto pomposo adesso, Dopo tanto è riuscito a comprarsi un baracchino, Che baracchino si ha preso? Mi sa che si ha preso il tuo, a tu. Lo Zeus o l'altro? L'altro credo sia, sta uscendo bene, meno male, almeno sentiamo perfettamente adesso. Mi sembrerebbe pagare 75 euro da usare. 75 sembra. Parex Pro. Com'è quello che sta modulando adesso Giuseppe? Eia! Prego. Passa il break. Ehi, buongiorno a tutti, dai. Volevo capire se stava innescando qualcosa, un controllo, chi mi ascolta meglio. Dico buongiorno Gigi Vulcano, buongiorno Giuseppe da questa parte e stai anche innescando. C'è un innesco sotto, giusto? Dico Gigi. Ho capito. Riprendete un attimino, scusandomi un attimino. Tranquillo Gigi, tranquillo, sei sempre il benvenuto tra di noi. quindi sono qui. Cosa fai? E niente, cosa voi stai facendo? Freddo c'è, fuori se. Umidità. E butta. Dove lascio? Scusatemi, c'è ancora quell'innesco? Sì, non è un innesco, una specie di rientro c'è, cioè, più che l'innesco, un rientro da pallascolta. Anche così? Adesso se ti passi un radio, poi l'innesco non c'è. Guarda così a vedere. Ma la munizione è brutta, non mi piace, sembra che è chiusa, munizione molto chiusa, sembra che sia con il microfono o con la faccia in bocca, boh. Tu Giuseppe lo senti? Guarda, io lo sentivo meglio poco fa, prima che toccasse qualcosa, sicuramente si parla solo. Vedi, si è cambiato così. Apri, sei molto cupo. È molto cupo, addirittura. Ho capito se era così prima. No, forse. No, allora c'è qualcosa che non va così, dai. Positivo, dai. Vedi un po' come Giovanni, come lo tiri fuori tu a Gigi? Dentro a Tamburana lo sento, buongiorno lui. Allora, io provo a cambiare subito. Cambia, che bruttissima quella radio, ma brutta però, Tori! Papà, la mia non mi tiene niente, l'ho preso, oltre che sono piccolo e nero, non mi sente nessuno. E non ti dà nessuno, però, Come non ti sente nessuno? Alla grande. Oh, Giovanni, vedi adesso se è cambiato. No, lui, no, va bene, brutta, veramente brutta, dai. Positivo, dai. Accudite. Accudite che cotto? Carpa se trinca, va. Giomari. Sta facendo colazione, Giomari, sta pigliando il caffè. Verrà colando, Che sia buona questa colazione. Oggio Marino, ma vero è quello che sta combinando Graziano? Come? Vero è quello che sta combinando Graziano? Ehi, è vero, Giuseppe. Si sta dando la pazza gioia questa volta, ragazzi, immaginate. Sta facendo i soldi a Palazzo, adesso con questa compagnia sassarese. Non so dove devo andare, so è in Russia o in Polonia, una cosa del genere. Si sta organizzando bene. Lascia fare, quando lo trovo in verticale già la giusto io, Giovanni. E non lo si è girato la faccia quando gli ho chiesto l'autografo. Ma evidentemente, era un po' sfaltato era, però ha detto, dice che adesso è tutto a posto, tranquillo e per cui può andare avanti come vuole. Va bene, questi sono gli amici di Giammarini, a te te l'ha fatto e te l'ha incorniciato, io ancora non ho avuto quel privilegio. E meno male, dopo tanti è riuscito a incorniciarlo, però te l'ha promesso e lo faccio a te adesso, Speriamo, dai. Avanti, buon morì. Ah, eccomi qua, Kappa. Stavo facendo una cosa, quindi non vi ho seguito. Di cosa state parlando? Ma così di più e di meno. Adesso vedi, facciamo un giro di menù per l'ora di pranzo, vediamo chi ce l'ha più buono. Ma è così bisogna fare. A Graziano bisogna chiedere a Graziano cosa bisogna fare per pranzo oggi. Lui ha dato dei consigli buoni perché c'ha molte ricette fatte da lui e per cui conviene. È un consigliere abbastanza buono, Vai Torino. Papa Roger, oggi a pranzo, cappetto. Non mi piace, Torino, non mi piace. Oh Maria. Dalla veduto. Buongiorno, comunque. Ma tra l'altro non ci sono. Buongiorno, Torino, parole di Usini, buongiorno. Buongiorno a lei. Giovanni, come ti sto arrivando? Che sto usando quel baracchino piccolino nuovo che ho preso nel coso, da Fusaro, come sta uscendo? Va benissimo, Giuseppe, la radio è abbastanza chiara, sei 8 e 5, dai, aspetta che ti faccio dare un consiglio, da un controllo da bombolo, vai tanto di bombolo. Sì, Santiago 7, radio 5, ti sento benissimo. Oh, mitica, non credevo che uscisse così bene col microfono suo. Vedi tu, ma vedi a tu che quando le cose le fai bene, c'hai una cosa, diciamo, le sue 5 watt tranquilli, normale, pulito, omologato e tutto quanto, e vedi che la questione esce benissimo, cambia. E Sagoa. Non dice me, Giuseppe. Muto tu, gatto, uscia poco, stai zitto. Non dico nessuno, lo stai andando liscio. Bene, funziona, niente da dire. Guarda, va bene, va veramente bene, non c'è, gli ETG non c'è manco bisogno di metterli niente, dire che ti gira, perché si sente bene, la verità. Antonello, Pomponio. Già sono qua già. Barrato. E Barrato. Ci sente lo stacco della GMT, si sente. Ti ho detto tutto. Ah, si sente? Fatta. Comunque, Antonello, quel baracchino piccolino l'ho mai messo a posto tu, quello che ti ho preso da Fusaro. Da Fusaro, mi ragazzano. Pomponino. Dimmi, Giuseppe. Mio giro sta uscendo liscio, Cassato e Ferrarelle. No, non mi sembra più Cassato che Ferrarelle, più Cassato, hai capito? Vai. Se senti uno stacco come il mondo, la portante sente uno stacco, evidentemente, contattore in giro, Leonci. Mi torni. Ho detto contattore in giro, c'è, cioè, ma dove c'è? Al quadrato. No, non sono al quadrato, sono su a coso, a Bella Vista, capito? A San Francesco. Lì alla Bella Vista sai quanto mi devi arrivare, minimo 1:30. E mi dice Santiago Sega. Che piccolo, mica non sono. Sono lì a Bella Vista e siamo in movimento, hai capito? Ecco perché ti arrivo con ripasso, Tony. Ma cosa movimento sei che sei fermo? Che lo stai dicendo? Ah, sono stato cieco magari, non mi Oh, il Tonino me! Ah, che lo stai dicendo? Il movimento, se ero stato cieco almeno non avevi visto l'ago. Sei sempre il solito segnale, cosa stai dicendo? Barzellette, oh, porro! Vai, Gianmarì! Lasciato stare a Giuseppe che sta uscendo bene adesso, va bene? Quando è Giuseppe che attacchi quella questione a quello lì pure, dai, almeno c'è più forte. Mi raccomando, non mettere niente! Ma Giovanni, sto uscendo con 5 watt, anzi 4 watt, capito? 4 watt, sto uscendo, 4 watt, normale, liscio, come la fabbrica ha fatto col baracchino, sto uscendo con quello lì, hai capito? Lasciala così, lasciala così, a te sempre ugualmente. Non ti preoccupare, va bene, va bene. Vai, vai Antonio Bombolo. No, già va bene, il cappettino. Già ce l'avevo anch'io. Adesso c'ho lo Zeus, che lo uso ogni tanto. Cioè, lo uso la sera, lo uso. Allora mi tratto Giccio che è migliore. Però dico che funziona bene. Lo Zeus c'ha lo Smitter, il corso di frequenza, la frequenzina, tutte queste cose. E più c'ha lo display di blu. è completo, Ah, già funziona abbastanza bene, dai. Anto, Giuseppe lo usa di notte, come va di notte a notte, lo fa anch'io. Sei detto? Ho detto che Giuseppe lo usa la notte, come va di notte, come va anch'io. Cappa. Ma gli hai fatto qualche cosetto? Come che ho toccato tu, dai, io non ho toccato ancora niente. Però Giuseppe che lo usi di notte, tu. Anto lo usa di giorno, tu lo usi di notte, come va la notte. Buongiorno. io là, li prendo io che devo chiudere, per cui ne approfitto. Ciao Sandro, buongiorno, ben entrato in cordialità, buon primo maggio anche a te e famiglia. Approfitto, dai, buongiorno, circolerà tutti senza dimenticarne nessuno, e per cui Gio Maria chiude. Vai Torino, io non riprendere, vai a Torino. Yeah, ciao Giovanni, ci sentiamo alle prossime rappresentazioni, buon tutto. Giuseppe, tornava avanti. Ciao Giovanni, buon tutto, ce la risentiamo e ne approfitto per salutare Sandro, ben entrato. Sandro, lo senti a Tornado? La gente è Sandro. Imparito è Sandro. Emozionato. Che bella roba! E dove sei, Giuseppe? Sempre sotto controllo, cappa. In generale, sempre. Va. Santo re. Dimmi. Va meglio adesso, no? Adesso io che tu. Sta provando, non sto fermo. Cosa l'hai? Che credo a mettere 40-30 era. Sì, non tanto che rimasto di orario, ma il segnale ci è abbastanza sicuro, io sono là. Sarà per un minimo una decina d'anni quell'apparato. E ora dentro, aiuia. Avanti, Doncino. Il nome della vetta si è attaccato già finora. Doncino. La sono scesa bella bene, a bala. Fa male bere la mattina presto. Sì, se si sa bene già fa bene. Quando abitavo a Cetantorico, la mattina non scendevo. Mi pigliavo un avanzato e facevo l'accidente, ma riuscirei naturalmente in moto. Mi scaldava appena anche l'inverno. E ero tranquillo a destinazione. Adesso più avanzati, cazzo di basi, turbo mi fa diventare, le orecchie rosse rosse. Ora buona. E lo sono più abituato, capito? Ah, vedi quella bomba. Ah, sì, il whisky è una bomba, è molto più piccolo. Non whisky della Mazzotti, né limoncello, niente. Sono una cabina normale di quelle di Ruspina e basta. Una o di più, la mattina presto. Per limitare allora del prato, posso bere anche due prima di mangiare e altre due dopo. Io il limoncello già non ne compro. Io me lo faccio da per me. Cappa, no, io... Quando ho fatto la mazzetta fuori c'è. E poi non ho più toccato. Sono parecchi anni senza freggiare. Ma cosa un bene anche. Figurati tu. Vabbè, il prossimo che è fatto te lo porto a assaggiare, dai. A vedere cosa ne dici. Faccio un prodotto buono, è quello che faccio io, è buono davvero, non ne faccio io porcherie, cappa. Beh, logicamente quando uno se lo fa per sé è molto più buono, è tutta un'altra cosa. Beh, se non devo fare questa roba qui è... Buona, sì, c'è chi si fa il bianco, c'è chi si fa il limoncello da solo, eccetera, se lo fa direttamente in casa, non è che ci voglia molto. Spero che l'erba giusta e l'acqua giusto, e l'acqua che esce buona. Beh, quando lo rifarò, te lo porto a casa. La promessa è una solo, Adesso aspettiamo un po' perché devo buscare il limone. Quando lo riparo te lo porto. A vedere cosa dici. Se mi ricordo, te lo busco io il limone. Se mercoledì vado in campagna di Danone, intanto non se ne fa nulla il limone. C'è una pianta di limoni che non tocca nemmeno. Figo, tu lo compra. Se mi ricordo, parlo con la busta di limoni. Con l'esame ti fai un bel po' di limoncello. Tanto se no a lui li cano tutti bene, sono abbastanza grandi anche quei limoni. Se non basta che vanno qua su me, nella villa che c'è la discoteca. Ma quanto rumore, però sembra che di buon ragione sembra qualcosa, sembra, non lo vuoi sembra. Vabbè, non c'è problema, quando è già lo faccio. E poi ti faccio assaggiare il mio prodotto, come lo faccio io. A ver se ti piace. Ah, già va bene, avanti Giuseppe. Yeah. Vabbè, adesso il segnale com'è? Si sei spostato. Cappa. Cappa, arrivi più forte da me, arrivi. Ma ci sta arrivando, Pomori? C'è oltre 9-10, sei qua, Non so dove sei. Cappa. Tornano a Usino, cambio. No, già stai arrivando abbastanza bene. Sì, ya. Tonino! Tonino! Ma ci dovrebbe essere Giuseppe tornato anche. Cappa, attenzione Giuseppe, tornato. Mi ascolti? Attimo. Sì, ya. Com'è il segnale di dalla zona tua? Cambio. Tornano a Usino. Ho visto passare qua. Il segnale buono. Cappa. Attimo! Scritto, non aveva pensato il carabinieri di Sosso quello. Sandro, ci sei? Sandro, è entrato e... Bravo. Tutti scritti, se mi sembra. C'è l'altro Giuseppe, ci sei tu Giuseppe? L'altro Giuseppe Mancino. Antonio Bombolo, abbiamo andato i quinti. Io non lo sento più. Mi stavate chiamando? Questo siamo rimasti in pochi qua, in tre paesi siamo rimasti, lui Giuseppe e tu. Ma cappa, cosa sta salendo a Usilo? Sta salendo, vediamo un po'. A Usilo sta salendo, Giuseppe. Cappa. Un po' se ci sentiamo. Sì, ya. Ancora già ti copio bene. Cappa. Cappa. Ya. Stiamo andando a Usilo, prego, ma c'è. Se riusciamo a trovare un po' di ciocca, c'è un paio di buste, ci fermiamo a fare un po' di ciocca, minuta. Poco d'ora di bici. Il cane lecco. Bisogna provare. Ma ricorda, c'è per indicare di suonare, attenzione. E cappa. Qua Dino mi ha collaborato di quei cani là, ce ne saranno almeno sei adesso. Come si fa? Ma tutti noi c'è un coso, c'è un Alessia giù, con Scubi, dato la via che si è tagliato adesso, c'è una andaggia, abbiamo sempre stato subito indietro. Capito? E se è andato tutti a andare. E oggi? Via, chi è? Ma ci sono arrivati quali coordinate, dove sei arrivato? Siamo sotto la curva, dai, di oggi, no, quella roba, 9-10 a picchi positivi, dai. Va bene, va bene, va bene. Sì, dopo, io anche attento di andare a andare, sono pedinato. Ma per andare con un micro, quando ne vedi 5 o 6 cominciano già a fare, non c'è bisogno neanche che ti danno un pane di che fuggi. Mi spari, lasci in terra. Allora sì, col baracchino al rovescio. Quanto? Questo, 9-10 col baracchino al rovescio. Ah, boh, non so se 9-10 col baracchino al rovescio. Ma è questo segnale? Mi sembra strano 9-10, perché non ce l'ha. Baracchino che ha preso da Fusaro, quelli non ne hanno smesso, certo. Si conferma quelli i secondi sì, quelli lo Dio ce l'ha, ma quello lì non ce l'ha. Cappa, cappa, Antonio, che bello. Ah, qua ancora no. Ok, da te. Ma minaccioso te. Ciao Giuseppe Tornaros. Ciao Facchetti, ciao, qui sentito e cordialità. Ma padrone, cioè, va bene, io mi stacco un attimo, a più dopo si così. D'accordo Antonio, d'accordo. Cappa, produciamo da faccioca, Giuseppe. No, negativo, come. Sono fermato qui a leggermi i giornali e sono scendo a casa. Come cappa. Ok, dai. Leoncino, come sei arrivato? Quasi zona minaccia. Sono sotto le curve di Ugino, capito? Tu? Sotto curve di Ugino e non so se riesco a copiarmi bene, cambio. Ma sicuro mi dici, stai arrivando un po' forte, no? Sotto le curve di oggi non so. Ma se mi metto una cervicata che ferma è per pisciare di vivo Giuseppe, vedrai, fa pochi minuti si piscia e va direttamente lì nella cervicata. Poi che fa? Ma strano che sta arrivando un po' forte qua a casa. Oh, Gio Maria. Ehi, hai visto come arriva a Usilo? Sotto il cupo di Usilo e Leoncino, buongiorno al circolare. Giuseppe, meno male che sei all'aria aperta. Ammette che era un bel Leoncino. Deve essere che ha fatto un bel studio, ha fatto le potere della macchina, ce l'ha trovato la macchina avanti, lui si è messo dietro. Ah, è bene, e infatti. Aspetta, è saluto a pazienza, ma tu vuoi che? Si è allontanato. Ah, parlato di Antonio Facchetto. Ah, io chiamo Antonio, chiama a Leoncino, dai. Attenzione, Leoncino, si ascolti, bimba, pregata. Ehi, Antonio, sono arrivato a Ugino, alla punta di Ugino, dove c'è quella chiesa, hai capito? Qua si ci mette sta pregando che piova. Ah, oh, cazzo, addirittura. Siamo in voi bene, cazzo. Lascia il mondo come è. Non deve piovere. Se no lo sai che questa macchina è invece la benzina, mettiamo l'acqua per ritornare da a Trastari. Guarda che ci sono un po' di cassette in frutta lì vicino a me. Sotto la volta ci metti un bel po' di cassette per me come scendi piano piano. E cappa. Allora, che tu sei arrivando, veloci. Ah? Tu stai arrivando qua, se sei a Ugilo. Qua, com'è il segnale? Com'è? 920 Radio 5. Cappa. Scommetto che ci arrivo io con quel segnale, intanto. No, capo, tu tre battute. Cappa. Amato, sei veramente lì, cazzo, sta arrivando un bel forte qua, Forte sto arrivando. No, Leoncino, sei veramente lì, sta arrivando un bel forte. Eia, ci ha detto che a uso c'è la chiesetta. Santiago 9-9-3, 9-4 è qua, ti puoi immaginare. Va bene, va bene, va bene. Cazzo, a me, quanto ti arriva a te? A me, noi Santiago 5 è sceso adesso. Sono io in mezzo ai palazzi, senza essere a Osilo. Tu sei 9.40. 9.40? Bisogna manco di salire a Osilo per avere un segnale forte. Forse sotto il ripetitore, Giuseppe, vero Giuseppe? Giù nel ripetitore sono io. Più su del ripetitore, puoi immaginare, vedi un po' come arriva forte. Bravo, bravo Giuseppe. Modulare, farsi sentire, bisogna andare nei punti belli e che dopo la gente si ascolta senza usare e niente. Con 5 watt vedi dove arrivo io, cambio. Giuseppe, tornato, hai visto? Hai visto Giuseppe? Con 5 watt dove arriva? Aspetta un bombo, promodulato a Giuseppe. Riprende Giuseppe. Ecco Giomari, io da dentro Sassari con le 4 vatte, come sto arrivando lì. Santiago 8. Allora va bene. È più forte Leoncino Giuseppe, più forte Leoncino, Giuseppe Leoncino, bravo, bravo. Ah, ce l'hai la mappa, dove sei? Fermo, sono fermo lì a Bonaria, o Giovanni. Occhi al ripetitore di Sassari però, Vai a Torino. Per me sta usando il binocolo, mi. Anzi, che le scope sto usando per guardare quelle ragazze che ci sono lì a Tintino. Ioi, Antonello. Eia, sono qua. Come? Perché ti sto arrivando passo passo io da te? Ecco da voi ti dico, così arrivi qui. Deve essere che l'antenna sta girando. Ma di una cosa, ma cosa sei, con il 3009 o con il tipo? Sono con il 3009 di cessione, il tipo di trasmissione. Guarda il segnale come tra quello e il cable, guardami come ti sto arrivando, tra il 3009 e il cable. Ma allora sei 9.20 con il cable, 2.79 con il 3009, giusti. E allora cosa cazzo Santiago 5, cazzo ma dove, repito tu lo smetti. Cosa vuoi che dica? Ho messo l'attenuatore, no, per attenuarti, se no mi spacchi tutto. No, ci sa camminare, mi Giuseppe, però, Hai visto, Antonio? Eia. Che per noi sottovalutato, no? Preso. Bravo, Giuseppe, vai. Per vai a fare carriera. Canottiera, fa canottiera. Tornato, aiuto. Mi pare che non che come ne fa carriera mio, troppo Giovanni. Quanto sembra, quanto sembra, vabbè dai. Almeno qualche cosa diciamo se non altro, dai Giuseppe. Positivo, mannaggia. Oh, io cosa può fare Giovanni? Che Leoncino Non possiamo farci niente, bisogna per incavolare qualche cosa di diverso. Tutto lì. Ok, riprendete la bombola. Scappa. Boh, è un bel forte qua, è un bel forte. Boh, c'è qualche dubbio che sia lì, Beh, ci ha detto che è a Boaria, sotto il ripetitore, e che penso, magari per me non è bugiardo Giuseppe Ioncino, cioè, bisogna che, già lo conosciamo che è sincero, vero Giuseppe? Scappa, adesso momento, guarda, adesso il segnale dovrebbe abbassarsi perché sono in movimento, siamo ritornati da Udine, ho capito, abbiamo trovato una persona e stiamo andando, siamo in mezzo ai palazzi e dunque vedi un po' che ho trovato un amico di uno, è capitato il caffè a casa sua e sono in mezzo ai palazzi. Sono incredulo, sono, ma insomma, Giuseppe è una persona come si deve, che adesso, ma tu, proprio lì, raccomando, aspetta, devi accettare ciò che dice Giuseppe, perché Giuseppe è sincero, È un coglione, Giuseppe. Almeno lei, ciao, quanto è? Vai, ammazzati! Orologio! Sì, buongiorno! Attenzione Osilo! Guardi chi chiama Osilo! E qui è la Toscana, buongiorno! Buongiorno Sandro, Tigre, buongiorno la Porotone, sì. Come sta arrivando lì nella zona di Porotone, sì. Cambio! Aspetta, cosa ti hai detto? Che sei in Toscana o una Toscana? No, no, mi trovo a Firenze, in Toscana, mi ascolti? Che cappa, Sandro, Sandrino, come ti arrivo lì, la zona, cambio. Ah, sono lì di una scolata poi in Toscana, complimenti. Sì, dammi un segnale, Sandrino, come ti sto arrivando lì in quella zona, cambio. Ah, guarda che oggi bisogna andare in Toscana, ma come la sono se dovrei parlare in Toscana anche lì, Antonello. Dimmi, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno, come va? Beh, segnandomi un cavo, nel frattempo vi stavo ascoltando. Ho visto che oggi è abbastanza attivo Lioncino e dunque gli ho voluto dare il buongiorno, ecco, tutto lì. Usha poco, Rodione sei tu mi, usha poco, eh? O si rabbia? dimmi, zio Lioncino, dimmi tutto. Rodione sei tu cazzo che deve essere, stamattina deve essere che li accusi e mangiato pasta e ceci e stanotte fuochi d'artificio. Ma no, di queste cose sinceramente non ne ho mangiato, la verità, un piatto di spaghetti e vai andando. No, per il fatto di questo discorso è Antonello che me l'ha detto, la colpa è di Antonello Pomponio. Ma la faccia è sempre, ma guarda, aspetta, c'era, mi sembra Giulio che voleva andare, Giulio. Non ci avete l'alzare per stamattina. Ah, non è Giulio, c'è qua, saluto lì. Buongiorno Claudio. Ehi, buongiorno, buongiorno, vi sto ascoltando. Cosa ci avete? Risposti di stomaco siete? Lo vorrei forte, Ocra. Sono ritornato da Osilo, ero a trovare un amico e dunque siamo andati in questa casa a pigliarci il caffè e tutto quanto, insomma sto ritornando a Sassari, hai capito? E lì e sembrava strano che io arrivavo con il forte da Osilo. Ma dove? Da Bonaria. Ti sembrava strano che arrivi così forte da Bonaria? Da lì si arriva forte a tre parti. Dunque continuate, fate la bravi e sono ascolto. Ciao. Ciao, Cla. perché vabbè, l'abbiamo preso oggi a fare divertimento così, giustamente. Sempre nelle ultime ore di divertimento, la gente ascolta. Buongiorno a tutti e buon primo maggio. Ah, ma riprendi Tonello Pomponio. Scappa. Vabbè, va un po' di Lussi. Via, sono qua. Mi sto saltando un pezzo di capo e non mi ritrovo il... Ah, sì, l'ho trovato, lo stagno, manco che ce l'avevo in tasca. Ti riprendo io che sto mettendo la macchina in garage, dai, sai, quel re che per me. Salutoni a tutti, a te. Ciao Giuseppe. Allora, ci sentiamo. Ciao Giuseppe Tommaso, vai. Ce la risentiamo. Ciao a tutti, ho detto io buongiorno, anche se ha salutato solo Antonio De Giuseppe. Buongiorno a tutti, buon primo maggio, sono in ascolto, sto facendo cosa. Vai, non c'è nessun problema. Sì, buongiorno Club, hai sentito? Buongiorno. Sempre bene tornare a questo baracchino, sì. Allora. È passato macchina allora, va bene, a dopo, vai. D'accordo. Buoncino. Avanti. Malta calda. Malta calda, l'erba che canta, l'erba di casa mia. Cos'è? Adesso devo insegnare più fatto, Ettore. La stai salendo adesso. Che capa. Non ci, la potenza è nulla senza il controllo, Ehi, com'è che sta arrivando a te? Ossilandia lì a Ossi, cambio. Allora, qui a Ossi, 9, movimento 9, 9 più 10, 9, 8, dai, comunque la radio è sempre 5, va bene. vedi, Antonè, vedi che... quando facciamo i lavori tranquilli la roba come rende, capito? Con il piccolo baracchino da 4 watt nuovo comprato da Busaro, 65 euro, l'uccello cambio. Auguroni allora, dovresti impagnare il nuovo acquisto. Capa, sto provando quello perché l'altro, il Galax, quello, cambio. Già va bene allora, dai, mi raccomando, me lo segno la bevuta per il nuovo arrivato, ecco. Va bene così, avanti Pompo, a te ti ho offerto qualcosa, qualche rinfresco. Prima da una parata e per l'altra e poi sto saldando. Ah, positivo, già va bene, allora. Attacco un cavetto, di questo scendifuoco ti metto a favore. Lo metti sotto al palo e già ne ricevi la roba, un dipolo. Sì, quello sì, no, li stavo ascoltando, questi già sono bravi a volte a mesi a fare radio, È tutto un altro mondo di ascolto, confronto al nostro. Gli andrà bene. Però ho perso lo stagno, scusami un attimo che vado a cercarlo, chissà dove mi è caduto, ce l'avevo in tasca, porca miseria, uno spezzone. Oh, la poverino, lo sto cercando, scusami un attimino, fai girare. Eia, che lo stagno cerca. avanti nel cielo. Dimmi, Antonè. E dimmetela. Aspetta, mi sentite il bombolo, beh. Scappa. Avanti, bomboli. Ha chiuso da poco fa. Mi pigliate anche giù, Maria, allora. No, sono i cuori che suoi. Riprende troppo la cui. Sono tanto merlo, barracudo comunque, con buongiorno. I cuori che sono, va Antonè. In quanto tempo? Boh, me la metto più, beh. Oh, io, io. Qualcuno ha sentito Fabrizio per caso? No, negativo, non ho sentito ancora Fabrizio io. Io notte c'era, la male non lo sento per niente.